البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Ciao. Buongiorno Palestina. A pochi giorni dall'annunciata annessione delle colonie illegali e del territorio palestinese della Valle del Giordano da parte di Israele, progetto che rientra nel cosiddetto piano Trump e Netanyahu, in molte città d'Italia si stanno organizzando manifestazioni di protesta per scongiurare questa ennesima catastrofe. Una nuova catastrofe, infatti, una nuova Nakba si sta per compiere in terra di Palestina, 72 anni dopo l'espropriazione e la distruzione dei villaggi palestinesi del 48, 53 anni dopo l'occupazione dei territori a seguito della guerra dei sei giorni del 1967. Annessioni totalmente illegali e denunciate come tali dal diritto internazionale, dall'Unione Europea, dalla Lega Araba. Oggi, nel 2020, si potrebbe assistere di nuovo all'affossamento del diritto internazionale e alla restaurazione dell'apartheid. Gli israeliani tengono già sotto controllo l'area di cui si vogliono impossessare anche legalmente e i palestinesi sono quotidianamente soggetti alle incursioni dei coloni protetti dall'esercito. Con un atto formale di annessione si potrà dire che viene cancellata la norma che vieta l'annessione unilaterale di territori acquisiti con la forza, norma universalmente riconosciuta come una regola fondamentale del diritto internazionale, così come verranno delegittimate le istituzioni nate dalla sconfitta del nazifascismo, quali la Corte Internazionale di Giustizia e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se la comunità internazionale si mette al servizio della prepotenza israeliana, ci chiediamo dove si va a finire se si accetta di spacciare come democrazia quella che è una democrazia etnica, cioè uno stato dell'apartheid. Dov'è la voce della giustizia, del diritto internazionale, i veri capisaldi della democrazia? Dov'è una voce forte dell'Unione Europea? Nell'approssimarsi degli eventi, abbiamo con noi oggi due persone che conoscono a fondo la situazione. Abed, della comunità palestinese fiorentina, e Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina Italia. Parleremo con loro subito dopo la rassegna stampa. In questo numero, oltre alla musica, ascolterete brani tratti da film conservati e restaurati dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. E nel blog troverete il link a un film breve sulla lotta di liberazione della Palestina. Passiamo ora alla rassegna stampa della settimana. Buongiorno Palestina, rassegna stampa della settimana. Il tema di questa settimana è quello delle pretese di annessione dei territori palestinesi da parte di Israele. Si tratta di una avversione generalizzata da parte di governi, da parte dell'Unione Europea, da parte di studiosi, esperti, gruppi ebraici. Naturalmente invece gli Stati Uniti sono d'accordo. Cito poco più che i titoli. Lettera aperta al governo di Israele da parte di 240 giuristi internazionali che condannano l'annessione, riportato da Assopace Palestina. 47 esperti indipendenti delle Nazioni Unite dichiarano l'annessione renderà Israele ufficialmente uno stato dell'apartheid. Il Consiglio Mondiale delle Chiese, o Consiglio Ecumenico delle Chiese, chiede sanzioni su Israele in caso di annessione, riportato da Cultura e Libertà. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese raggruppa 340 membri di tutte le principali tradizioni cristiane, in gran parte protestanti, anglicane e ortodosse, ma ultimamente vi ha fatto parte anche Papa Francesco. Ma anche da parte ebraica la reazione è vivace. 400 studiosi ebrei dichiarano che l'annessione è crimine contro l'umanità, creando formalmente una situazione di apartheid in Israele e Palestina. E la notizia, questa notizia, la riporta il Times of Israel, che è il corrispondente del nostro Corriere della Sera, diciamo, non è un giornale di sinistra. 4 giorni dopo, le firme da 400 sono diventate 500, in cui dicono esplicitamente: ripudiamo apartheid, annessione e occupazione. Interessante la reazione a questa lettera da parte del rabbino capo olandese. In un editoriale che condanna la lettera, il rabbino capo olandese paragona la richiesta di sanzioni a Israele oggi a secoli di ostilità passata da parte dei cristiani nei confronti degli ebrei. Diciamo, il vittimismo ebraico è sempre in agguato. Da notare che perfino l'AIPAC, destrorsa, la potente lobby sionista statunitense, ha dato il via libera alle critiche ad Israele sulla annessione. I piani israeliani della Cisgiordania sono stati condannati da importanti personalità ebraiche e britanniche. Su questa notizia, che Palestina nel cuore aveva già dato la settimana scorsa, è ritornato Robert Cohen, che è un collaboratore di Writing from the Edge, che è un sito ebraico britannico, con il titolo "Non puoi dirti antirazzista se approvi il sionismo". Dice Cohen, a proposito delle dichiarazioni da parte di esponenti ebrei sull'omicidio di Floyd negli Stati Uniti: come ebrei non potremo mai dirci antirazzisti fino a che approveremo il sionismo. E dice ancora: il sionismo liberale non può nascondere il suo razzismo. E questo lo dice a proposito di quei prestigiosi esponenti ebrei britannici, di cui ho parlato prima, no? Di cui avevamo parlato anche la settimana scorsa, perché Cohen accusa che la loro preoccupazione principale non è per l'ingiustizia e la discriminazione dell'annessione, bensì per il danno che ne può subire la posizione di Israele. I firmatari di questa lettera dipingono i palestinesi poi come i principali responsabili della loro stessa oppressione. E conclude Cohen: quando è che ci libereremo noi ebrei del sionismo come lente attraverso cui guardare il mondo? Sul sito di Nena News viene titolato "La sinistra israeliana, dissoluzione e isolati vagiti". Sono due articoli in sequenza. Certamente non c'è da sperare nella società israeliana, data l'ebbrezza di onnipotenza che pervade la società israeliana. In questa situazione la sinistra non può che essere ridotta al lumicino. Il titolo di Nena News però è forse un po' troppo pessimistico, perché è vero che la sinistra israeliana è esigua, però almeno oggi si esprime finalmente senza infingimenti e parla dichiaratamente di apartheid. L'antisemitismo favorito dai repubblicani negli Stati Uniti. Su Palestina nel cuore, un articolo di Natasha Roth, ebrea, descrive come il Partito Repubblicano riesce a mettere insieme le istanze sioniste dei cristiani evangelici, che vogliono usare gli ebrei per la riconquista della Terra Santa, con l'antisemitismo dei gruppi nazisti bianchi e anche con l'antisemitismo loro stesso, perché i cristiani evangelici sono antisemiti. Sul piano dei media si tenta di far prevalere negli Stati Uniti, dichiara la Roth, le teorie cospirazioniste della destra, che è andata emergendo quella che viene chiamato il nuovo antisemitismo, ovviamente riferito alla sinistra, i musulmani, identificando antisionismo con antisemitismo. Si può facilmente notare che questo corrisponde alle accuse che vengono fatte da parte dei nostrani amici di Israele alle organizzazioni anti-sioniste. Stessa corrispondenza c'è per quanto riguarda il complottismo, Covid, G5, similmente ai complottisti nostrani, generali Pappalardo, fascisti vari, che però riescono a trascinare anche persone di sinistra. Gli argomenti e le manifestazioni sono ugualmente concitate, il linguaggio intollerante, estremo, tutto analogo. Negli Stati Uniti vi sono le accuse al finanziere ungherese ebreo George Soros di essere il manovratore della carovana dei migranti dal Sud America, argomento sul quale Trump è subito saltato in groppa, cioè viene contestato poi ai ricchi ebrei di rubare le elezioni di midterm, le elezioni ultime che ci sono state, che hanno dato la maggioranza alla Camera ai democratici. E viene accusato per questo Soros di stare dietro a tutto ciò che è nemico, adombrando un complotto globale globalista, questo termine globalista, cioè ebraico, per il controllo del mondo. Dall'Ohio alla California al Michigan, estremisti di destra brandivano cartelli che accusavano gli ebrei di essere la vera pandemia, paragonando al nazismo le ordinanze di stare a casa, condannate da Trump, e paragonando i governatori democratici che le avevano fatte, condannando questi governatori democratici e paragonandoli a Hitler. Nello stesso tempo sono proprio i nazisti che confluiscono poi nel Partito Repubblicano. Israele quale annessione? Di Ugo Tramballi, che è giornalista del Sole 24 Ore, ripreso da Zeitun. Tramballi fa una dura critica alla gestione della seconda intifada, esprime poi le sue valutazioni su una possibile tattica negoziale nel piano di annessione di Trump e Netanyahu. Altre notizie sono quelle che decine di coloni invadono la spianata delle moschee a Gerusalemme ogni giorno, appoggiati all'esercito, e questo ormai per l'appunto un fatto quotidiano, trovate su Infopal. Netanyahu dichiara che Putin gli aveva assicurato che se lo Stato di Palestina fosse stato presentato al Consiglio di Sicurezza ONU, la Russia avrebbe posto il veto. Questa è una notizia che Netanyahu dà attraverso il Times of Israel. Non so quanto sia credibile. Che cosa sarebbe l'identità israeliana senza il sionismo? Se lo chiede un ebreo israeliano in modo problematico con un articolo su Zeitun. Ora, ci sono molti ebrei non israeliani che sono antisionisti, pochi gli ebrei israeliani che si chiedono che occorre fare a meno del sionismo. Prima di concludere, una considerazione finale. Dunque, in questa rassegna stampa ho cercato di mettere un po' in evidenza la presenza sulla stampa di una vivacità di interventi da parte ebraica, pur con posizioni discutibili certe volte, però è una discussione che c'è effettivamente presente. Stupisce invece l'assordante silenzio delle comunità ebraiche italiane, né su Moked né su Pagine Ebraiche, che sono organi ufficiali delle comunità ebraiche, si è parlato dell'annessione, ma invece ci si è solo compiaciuti che in Israele si fosse alla fine fatto il governo di coalizione. Con questo si conclude la rassegna stampa e mando un saluto agli ascoltatori e ai nostri ospiti di oggi. Ascolterete ora una breve parte della colonna sonora del film Palestina in fiamme, un documentario del 1981 per la regia di Monica Mauler. Elemento vitale per l'agricoltura, ai coloni è fornita in abbondanza, mentre ai contadini arabi resta l'1% della fornitura totale per l'irrigazione delle loro coltivazioni. La penuria di acqua e la sistematica distruzione dei tradizionali impianti di irrigazione riduce il contadino palestinese al minimo esistenziale. زمان أبانا وأجدادنا وأنت وابنك وابن ابنك بدك تعرف هذه ذرة التراب. Questa è la terra dei vostri padri e voi, i vostri figli, i figli dei vostri figli dovete rimanere in questa terra, su questo suolo. Non vi lasciate cacciare, non rinunciate a un solo pugno di questa terra. Voi e chi vi seguirà dovrà continuare a piantare gli alberi di olivi, ripiantarli ogni volta che verranno distrutti e sradicati. Voi dovete dare coscienza ai vostri figli e ai vostri nipoti che questa terra è la nostra storia, il nostro sangue, la linfa del nostro essere. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, stiamo trasmettendo Buongiorno Palestina. Oggi parleremo con Luisa Morgantini e Abed dell'iniziativa di carattere nazionale promossa dalla comunità palestinese di Roma e del Lazio, insieme ad altre associazioni e movimenti italiani, che si terrà il 27 giugno prossimo venturo in varie città, a Roma, Milano, Venezia, Genova, Napoli, Palermo, Bari e Firenze, per ribadire libertà e giustizia per la Palestina. Vorrei iniziare innanzitutto da Abed. Abed, te fai parte della comunità palestinese di Firenze e quindi ti chiedo innanzitutto perché questa mobilitazione di piazza in questo momento? Ma intanto io voglio salutare tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Innanzitutto, come sapete benissimo, ora è un momento in cui noi saranno più di 70 anni che abbiamo gridato sempre a questo, quello dove siamo arrivati ora, a dire stiamo attenti, stiate attenti, muoviamoci. Perché ora è un momento talmente in una massima delicatezza che Israele praticamente ora, con la sua politica, se veramente viene come è stato annunciato dalla parte del governo israeliano, non rimarrà nessuna possibilità, nemmeno il sogno palestinese e credo anche non solo. E qui che abbiamo lottato negli ultimi 70 anni, se loro praticamente vanno avanti con la loro politica. Perciò noi abbiamo cercato ora di mobilitare tutti quanti, come giustamente hai annunciato te, per dire no a questa politica israeliana, no all'occupazione, all'annessione del resto di quello che rimane praticamente delle valli del Giordano. Luisa, vorrei passare a te e chiederti anche a te in specifico il perché di questa manifestazione e come e se pensi che possa influire sulle istituzioni, in particolare il nostro governo, il Parlamento europeo, per assumere una posizione netta e decisiva sulla questione palestinese? Ma intanto questa manifestazione era d'obbligo, anche in queste condizioni di Covid, tra l'altro ovviamente abbiamo detto che rispetteremo le regole, mascherina, distanziamento, ma il problema è pazzescamente urgente. Come diceva Abed, Israele si sta mangiando costantemente pezzi di territorio che dovrebbero essere quelli nel quale c'è lo Stato di Palestina, cioè i territori del 67 che hanno occupato insieme ovviamente al Golan e alla Cisgiordania, ma lo Stato dovrebbe avere come Gerusalemme, come capitale condivisa. In realtà Israele persegue perfidamente e razionalmente il piano che ha non da adesso, ma da sempre, che è il piano di costruire ed avere la grande Israele. Negli ultimi 20 anni, con i governi Netanyahu e di destra, ma anche dei laburisti che sono succeduti, questo piano di annessione coloniale, che essere, che l'annessione è una parola, ma in realtà è furto di terra, furto di risorse umane, furto di acqua, furto di vita per i palestinesi. È cercare di impedire con la costruzione delle colonie in realtà l'esistenza di uno Stato palestinese. E oggi è drammaticamente importante perché è stato annunciato che a partire dal 1 luglio al governo, al Parlamento della Knesset si voterà per l'annessione dei territori. E l'annessione di non soltanto la Valle del Giordano, ma anche le colline a sud di Hebron, anche gli insediamenti, le colonie di Ariel, di Gush Etzion, di Male Adumim. Quindi un'annessione praticamente del 30% di quel territorio sul quale la comunità internazionale dice che dovrebbe esserci lo Stato di Palestina. Quindi se lo Stato di Palestina, così come si evince dai confini del 67, è il 28% di quella che era la Palestina storica, oggi di quel 28%, il 30% secondo Netanyahu, il piano Trump, che era d'accordo con questo piano, praticamente verrebbe annesso ad Israele. Con una cosa anche drammatica che è successa anche a Gerusalemme Est, che è stata appunto annessa dopo la conquista del 67, nell'80, cioè che esisteranno dei cittadini che sono palestinesi, che sono arabi, che non avranno diritto di cittadinanza. Netanyahu l'ha già dichiarato, annetteranno queste zone, queste colonie, però i palestinesi che vivono in queste aree non verranno riconosciuti, non avranno una cittadinanza israeliana. Quindi è una cosa di apartheid, è puro apartheid, quello che già esiste l'apartheid per i palestinesi, perché per esempio i coloni che vivono all'interno dei territori occupati, che hanno appunto rubato le terre ai palestinesi, hanno una cittadinanza israeliana, seguono regole israeliane, vanno il processo ai tribunali civili, mentre i palestinesi hanno tribunali militari. Quindi per questo è importantissimo agire adesso, perché non vi sia questa annessione coloniale, non continui questa parte. Luisa e Abed, volevo farvi una domanda, cioè rispetto a questa prospettiva di annessione, c'è una serie di prese di posizione di governi della comunità europea, ma anche poi c'è la lettera aperta al governo di Israele da parte di 240 giuristi internazionali, ci sono 400 studiosi ebrei che dichiarano che l'annessione è un crimine contro l'umanità, 400 che poi dopo 3 giorni sono diventati 500. Il Consiglio Mondiale delle Chiese chiede sanzioni su Israele in caso di annessione. Ci sono importanti personalità ebraiche britanniche che hanno preso posizione e che hanno segnalato il pericolo per Israele stesso di questa annessione. 47 esperti indipendenti delle Nazioni Unite che dicono che l'annessione renderà Israele ufficialmente uno stato dell'apartheid. Ecco, la domanda è: tutto questo si tradurrà in qualche cosa di concreto? Allora, posso rispondere io? Certo, certo, Abed. Bene. Allora, tutto questo che è stato elencato noi lo sappiamo benissimo e siamo orgogliosi di tutto ciò, perché questo è il frutto di una lunga battaglia che noi con le nostre compagne lunghe tutti questi anni che ci hanno accompagnato finché siamo arrivati qui a raccogliere tutte queste voci libere nel condannare questa politica di Israele. Però purtroppo basta anche, voglio aggiungere, che tutti i presidenti degli Stati Uniti che hanno finito il loro mandato hanno ora preso posizioni, cioè da Carter e tutto il resto sempre hanno preso posizioni contro Israele e la sua politica. Però tutto ciò purtroppo non ha cambiato nulla. Perché Israele è stata sempre con la sua politica, lì è una cosa, voglio dire, un po' triste nel dirlo, tutto succede sotto gli occhi di questo mondo che si può dire anche, gli piace definire democratico. Noi quando abbiamo detto alla comunità europea sempre di applicare ciò che è stato praticamente promesso a noi palestinesi. Noi quando per dire come il BDS di chiedere il boicottaggio di Israele, le sanzioni contro Israele e la sua politica, se noi non è stato mai mosso un dito, mai è stata praticamente applicata una sola soluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, mai la legge internazionale e il diritto internazionale arrivato praticamente in Palestina, perché è sempre stato bloccato o dal veto americano o dalla ambiguità e dalla burocrazia della politica della comunità europea. Mi permettete, allora quando loro dicevano che vogliamo praticamente boicottare i prodotti agricoli in Cisgiordania e li vediamo tutti i giorni nei mercati europei. E che vuol dire questa? Allora, se la comunità europea ancora continua in questo modo, ecco, arrivata Israele, come ha fatto dal lontano 48, a prendere sempre piano piano, fetta per fetta, piano piano, e ora le stanno dicendo: noi non andiamo a prendere e annettare tutte le colonie, tutte le valli di Giordania, andiamo a farlo piano piano, sottovoce, e questo lo sanno, siamo tutti, tutto il mondo consapevole di quella politica di Israele, di quella che sta facendo dalle 48, finché, come diceva giustamente la Morgantini, che ora noi stiamo a cercare addirittura, noi viviamo i palestinesi altro che ghetti o apartheid. Noi ora, se una cosa, questi ultimi pezzi di terra vengano annettati da Israele, compreso le colonie che loro hanno nel loro progetto e questa politica o a questo piano di Trump, noi palestinesi ci rimane solo il centro, i centri della città in Cisgiordania. Quando loro ci prendono il 30% del 20% di quello che doveva nascere lo Stato della Palestina, e vuol dire non rimarrà nessun palestinese. E questa sì che è la pulizia etnica, ci costringe Israele così, che non rimarrà più nessuno in Palestina. E così, in silenzio, e tutto purtroppo succede, e ancora non abbiamo sentito una sola voce chiara nel condannare questa politica. Ditemi che voi che mi sbaglio, se abbiamo veramente oltre quelle scienziate, questi professori, questi uomini, le chiese, questi. Però tutto ciò non serve purtroppo a niente. Se la comunità europea non viene a riconoscere lo stato della Palestina, che non è nulla, insomma, non stiamo a chiedere il miracoli. Stiamo a chiedere il minimo di riconoscere un Stato palestinese, e questo almeno può mettere qualcosa di reale sul tavolo. Però in questo modo io ho il dubbio con questa politica, insomma, che li sta proseguendo l'Europa, come giustamente io non voglio nemmeno parlare dell'America e della sua linea politica, perché ormai è tutto come chiaro, e questo, se non c'è stato per l'America, Israele non va avanti in questo modo così. E effettivamente noi stiamo vivendo molto tristemente in un momento molto delicato e pericoloso per il nostro futuro. Allora, se mi permettete, faccio un'altra domanda, scusa, Claudio, devi rispondere che Luisa. riguarda la manifestazione del 27, questa cosa immediata che abbiamo. Cioè, che cosa scriviamo sui cartelli il 27? E chiedo a Luisa, sui cartelli ci scriviamo sionismo uguale razzismo oppure verremmo accusati di antisemitismo? Cioè, perché faccio questa domanda? Perché ci sono molte personalità ebraiche oggi che parlano apertamente di apartheid e di razzismo nell'ambito della, come carattere del sionismo. Io vorrei tornare, io non sono particolarmente appassionata a questo, sono più appassionata a vedere che cosa succede sul territorio, nei cartelli, non lo so, ognuno può scrivere quello che gli pare. Noi abbiamo scelto delle parole d'ordine molto precise: no all'annessione, no alla parte, no all'occupazione, e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Poi c'è tutto, mi pare evidente che quello che sta facendo Israele è totalmente illegittimo, e come diceva Abed, non è mai stata Israele punita o appagato per i crimini che commette quotidianamente contro la popolazione palestinese, mai, ed è tempo invece di farlo. Ora ci sono, e io trovo fondamentale, importantissimo, le voci dei 500 studiosi d'ebraico che hanno detto no all'annessione, i 250 avvocati, giuristi, la popolazione civile, la campagna del BDS, ma trovo anche altrettanto importante, anche se purtroppo secondo me non daranno seguito alle sanzioni, ai gesti concreti, le posizioni che ha persino preso il premier del United Kingdom, il premier dell'Inghilterra, che ha dentro il Parlamento ha detto l'annessione non si deve fare. Lo stesso anche Borrell oggi ha dichiarato molto, molto chiaramente, anche se io temo che non lo farà, ha minacciato Israele di prendere posizioni nette, di fare azioni concrete, senza mai specificarle però. Quindi c'è in realtà non rispetto purtroppo all'occupazione in generale, ma rispetto a questo fatto dell'annessione, c'è in realtà una protesta molto forte che viene anche dai corpi diplomatici, dai diversi paesi. Però l'abbiamo visto in tutti questi anni, e lo diceva molto bene Abe, se l'Unione Europea, per esempio, non si decide di sospendere l'accordo di associazione con Israele, beh, Israele non prende per ridere le nostre minacce e continuerà nel piano di annessione. Tra l'altro, proprio l'altro ieri al Parlamento Europeo hanno votato, mentre noi abbiamo fatto una campagna contro i droni che venivano acquistati da Israele e anche l'uso degli spazi aerei, il Parlamento Europeo ha votato a favore in grande maggioranza di questo accordo ancora di commerci con Israele che riguardano i droni. Quindi quello che manca davvero è questa capacità da parte delle diplomazie, da parte dei governi, non di denunciare, perché denuncia costantemente, avverte dei pericoli, ma in realtà di non praticare quello che in realtà è stato fatto, per esempio, per la Russia sulle questioni della Crimea, sull'Iran, no? Sanzioni per tutte, ma non per Israele, che sembra essere al di sopra di ogni legge. È tempo di finire questo. Noi però siamo abbastanza deboli anche come società civile. Abbiamo dalla nostra il diritto, la giustizia, ma non riusciamo ad essere abbastanza forti, uniti, per riuscire ad ottenerlo. E io vorrei dire però qualcosa sull'annessione. Mentre noi parliamo dell'annessione in generale che avverrà il primo luglio, io credo tra l'altro che con il tipo di pressioni che sono state fatte su Israele in questo periodo, molto probabilmente da un punto di vista formale, Netanyahu rinuncerà ad annettere la Valle del Giordano, che è la più importante, perché la Valle del Giordano una volta era il cestino del pane per i palestinesi, era lì che prendevano tutti i prodotti agricoli. E oggi invece è un deserto per i palestinesi e una esplosione di una monocultura delle palme per Israele. Ma la Valle del Giordano è estremamente delicata perché è intervenuta pesantemente la Giordania e questa volta sono intervenuti anche gli Emirati, per esempio, con una posizione, gli Emirati che sono sempre stati molto a favore di Israele, molto legati, con una posizione che dice per Israele è bene non fare l'annessione perché altrimenti rischia davvero che noi non possiamo accettare questa cosa. Quindi io credo che a luglio, posso sbagliarmi naturalmente, ma la mia impressione è che il primo luglio Netanyahu non dirà annessione alla Valle del Giordano e forse neanche dalle colline a sud di Hebron, ma certamente quello che sta facendo oggi è estremamente importante. Ogni giorno continua a demolire case, territori, continua a far sì che i coloni possano costruire nei territori occupati, continua a cercare di fare quello che diceva Abed, di evacuare i palestinesi, e l'evacuazione si sa da parte di un paese occupante, del popolo occupato, è un crimine di guerra considerato, e continua però a farlo in modo assolutamente violento. Solo ieri, per esempio, sono andate anche in un villaggio che voi conoscete bene perché si chiama Attuani, dove ci sono i giovani ragazzi della resistenza popolare non violenta, un villaggio che finora era stato solo in espansione, era riuscito ad essere nel piano di costruzione. Sono andate lì e hanno attaccato i ragazzini, i bambini, bombe suone, gas lacrimogeni per demolire delle case. Quindi Netanyahu, da una parte c'è l'annessione generale, però quotidianamente persegue questa politica di distruzione della presenza dei palestinesi nei territori. Solo l'altro ieri è stato dichiarato da parte del sindaco di Gerusalemme che in un quartiere palestinese dove ci sono 72 famiglie, le famiglie verranno evacuate, cacciate, perché lì gli israeliani vogliono farci un parco. Quindi ogni giorno, e questa è la politica vera di Israele, dovrebbero fermarla in questi momenti, non farla continuare ad andare avanti. Facciamo un piccolo stacco e poi riprendiamo dopo con Abde e Luisa Morgantini. Ascolteremo ora una canzone degli Area. Diceva Stratos del gruppo nel 1974: il contenuto politico secondo me c'è, anche senza che io lo dica. Noi facciamo un pezzo per i compagni palestinesi. In radio non ci hanno mai trasmesso. Chiaramente tutti avevano dei blocchi morali. Si scandalizzavano perché abbiamo fatto un pezzo che si chiamava Settembre Nero. In realtà la canzone si chiama Luglio, Agosto, Settembre Nero. Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية Ha ha vecchi se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue. Andiamo con una domanda che vorrei fare sia ad Abed che a Luisa. Come prima Abed ha detto, l'annessione coloniale, che è stato detto avverrà il 1 luglio, secondo lui sarà un'annessione lenta, fatta a piccoli passi. E sinceramente, sentendo anche altri giornalisti, l'ultimo Ugo Tramballi, che ho sentito ieri a Rai News 24, è della stessa opinione, perché questa annessione dovrà tenere conto anche della forza protettiva che avrà l'amministrazione Trump, che in questo momento è un momento di debolezza. Quindi volevo domandare sia l'una che all'altro, appunto, questa annessione, anche voi avete questa visione, cioè di una lentezza che però è una netta dichiarazione, no, di un'altra ruberia di terra, e se in questo frangente, in questo lasso di tempo, ci potranno essere dei cambiamenti fattivi e importanti per quanto riguarda quello che si diceva prima sulle sanzioni? Io credo comunque, cioè Netanyahu all'inizio, come eravamo quasi tutti, come abbiamo saputo, visto, che lui andava come un trattore, voleva l'annessione il 1° di luglio, come ha dichiarato lui con i suoi alleati, sicura e tutta insieme. Poi ha visto un po' di voci, in particolar modo anche la posizione della Giordania, e qualche magari posizione anche venuta da qualche leader europeo. Abbiamo visto una cosa la prima volta che capita, del leader, insomma, del primo ministro britannico Johnson, che ieri l'ha detta, e l'abbiamo così in un modo chiaro, che noi siamo contro l'annessione. E allora Israele, anche con le pressioni di Giordania e probabilmente anche con qualche altro paese arabo, anche se sono specialmente l'Arabia Saudita, in particolar modo e l'Egitto, li hanno convinto, l'amministrazione americana, di convincere Netanyahu di andare piano nell'annessione di quel insomma, di quello che è stato promesso purtroppo a Israele dall'americano, da Trump. Detto questo, io voglio solo sottolineare una cosa, che purtroppo noi stiamo parlando delle valli del Giordano, stiamo parlando anche delle colonie, ma è questo comunque, e ormai tutta la Palestina è occupata. Noi palestinesi di esistenza, di potere, siamo zero. La nostra autorità, purtroppo, come sappiamo tutti, questo ormai, questo è noto, e il nostro presidente non riesce nemmeno, voglio dire, uscirne fuori Ramallah, senza il permesso di Israele. E se Israele lo fa, l'annessione, la valle del Giordano, praticamente fino a ieri, l'abbiamo sentito tutti, ma proprio ieri c'erano qualche pozzo di acqua rimasto a disposizione di questi, della poca, insomma, esistenza di palestinesi che sono rimasti, che lavoravano lì la terra. Li hanno fatte scoppiare sotto il nome che facevano delle esercitazioni militari. E se che tutto ciò, io questa è la mia domanda, dico, e perciò Israele o Netanyahu è andato piano nell'arrivare dove vuole arrivare, all'annessione totale, insomma. E così via via, come diceva anche la Morgantini, che loro non vogliono fare l'esperienza delle 48, che ora tutti quanti non lo dicano in una maniera chiara, come quel palestinese che sono rimasti a Jaffa e Acca, questa per loro Nazareth, non li vogliono palestinesi al loro interno. Sicché con questa nuova annessione che Israele si sta programmando, vuole costringere quel poche palestinesi che sono rimasti nelle valli del Giordano, le vogliono buttare fuori. Non le vogliono ripetere, vogliono ripetere l'occupazione di mangiare la terra a questi palestinesi, però senza il palestinese, e ci stanno praticamente riuscendo, perché la valle del Giordano è ormai occupata, noi della Valle del Giordano purtroppo non possiamo fare nulla, è rimasta è deserta perché l'acqua a noi non ci permettono né usare l'acqua e allora siamo costretti di lasciare via via. Però la mia domanda è questa: se noi a Israele, come comunità europea, come il mondo occidentale, come le Nazioni Unite, continuiamo a fare la lavatrice a Israele, abolire le sue sporche nelle case nostre, senza reagire per fermarla, che cosa credono? Che i palestinesi poi alla fine, se loro hanno preso la Palestina, pensano che il palestinese, ma veramente sono convinti che i palestinesi possano rinunciare alla loro Palestina e alla loro libertà? Stanno sbagliando. E dico non solo agli israeliani, purtroppo anche, le dico anche a quelli che stanno scommettendo da parte delle Emirati Arabe, dell'Arabia Saudita, che i palestinesi possono rinunciare e possono così sparire, insomma sparire dalla faccia di questa terra. Noi siamo più che sicuri ora, la nostra praticamente forte voce cerchiamo di farla arrivare e ripetiamo ancora da tanti anni, noi sì, ora noi si parlava di un po' di voci di 500 però noi abbiamo il 75% del popolo intero, della comunità internazionale, sono con il nostro diritto, però sono a parole. A noi ci vogliono il fatto ora e credo comunque, se Israele veramente arriva con l'appoggio degli Stati Uniti, Stati Uniti d'America, di arrivare all'annessione totale nel loro progetto, sarà il caos totale nel Medio Oriente. E questo credo comunque non giove né pace né tranquillità, non solo al Medio Oriente, che purtroppo vive in un momento e una situazione drammatica, ma io penso comunque in tutta la comunità, cioè in tutto il mondo. Luisa? Beh, in realtà il caos è un caos che c'è nel mondo in generale. Per quel che riguarda Israele, anch'io penso, e l'ho detto anche prima, è inutile che continui a ripetere, io penso che questa annessione di luglio sarà appunto ridotta rispetto a quello che era nei piani di Netanyahu, e soprattutto nel piano dei coloni che si stanno arrabbiando molto con Netanyahu perché appunto pensano che stia cedendo, si stanno anche arrabbiando con Trump perché pensa che li stia abbandonando, perché effettivamente in questo periodo l'amministrazione americana ha fatto delle pressioni debolissime su Israele perché non faccia prima delle elezioni di Trump un'annessione totale. Quello che farà probabilmente Netanyahu è l'annessione, lo dicevo all'inizio, di queste colonie che sono Male Adumin, che dagli israeliani in realtà è considerata una periferia di Gerusalemme, ma che è grandissima, che è enorme ed è costruita ovviamente sulla terra dei villaggi palestinesi che vivono dietro Male Adumim e non hanno più terra, e la grande colonia di Ariel nel nord, là dove ci sono con il muro rubato tutte le risorse acquifere, cioè tutta l'area dell'acqua della Palestina, e anche il complesso di Gush Etzion che è tra Betlemme e Hebron. Tra l'altro devo dire che Male Adumim e anche Ariel in qualche modo faceva parte dell'accordo che stavano facendo Arafat quando ancora c'era Arafat e Barak, perché avevano deciso in questo pezzo di accordo che avevano già raggiunto che quelle colonie sarebbero state annesse ad Israele, e però Israele avrebbe dato ai palestinesi un territorio equivalente. Era stato discusso anche quale territorio. Ovviamente gli israeliani volevano dare un pezzo del deserto del Negev, poi alla fine col negoziato si era deciso che lo swap, cioè questo scambio di territorio, sarebbe stato invece accanto alla striscia di Gaza, che è un territorio fertile, insomma. Quindi, secondo me, per non far arrabbiare troppo la comunità internazionale, Netanyahu farà questo a luglio, rallentando appunto formalmente l'annessione della Valle del Giordano, ma in verità accelerando il processo di evacuazione dei palestinesi dalla Valle del Giordano. Dovrei ricordare che nel 1967, quando ci fu la conquista da parte di Israele dei territori occupati, la popolazione palestinese ammontava a 375.000 persone. Oggi, appunto, nel territorio del Giordano vi sono 50-60.000 palestinesi, per lo più concentrati nell'area A, cioè a Gerico oppure nei villaggi circostanti. Tutte le aree fertili della Valle del Giordano sono state via via evacuate. Se uno va nella Valle del Giordano, vede appunto che i palestinesi vivono in villaggi dove non vi è acqua, non c'è luce, e tra l'altro le condutture dell'acqua che vanno nelle colonie irrigano felicemente non soltanto le palme, ma anche servono per fare le grandi piscine che sono all'interno delle colonie, e i palestinesi invece non va nulla, cioè l'acqua non devono comprarla e portarsela nei villaggi facendo anche 25 chilometri con dei tank, che poi vengono perquisiti dai soldati e vengono anche distrutti. Quindi c'è un'operazione proprio nella Valle del Giordano che è attuale adesso e andrà avanti così. Netanyahu non farà annessione, ma continuerà a tentare di distruggere. È stato interessante che il console britannico è proprio andato nella Valle del Giordano 4 giorni fa, e dalla Valle del Giordano ha fatto questa dichiarazione di non annessione, prima che Boris Johnson facesse la sua al Parlamento. Quindi c'è comunque un po' di subbuglio, ma che purtroppo, se non si decideranno sanzioni con Israele, vero, perché sì, non commetta più questi crimini, Israele andrà avanti imperterrita, appunto step by step, come dicevano i sionisti, step by step, noi ci prenderemo passo passo tutta la terra. E tra l'altro bisogna fare i conti con la crescita pazzesca di quello che è il nazionalismo messianico dei coloni che vivono nei territori, ma anche della società israeliana, che in questi anni si è molto irrigidita, diventata molto più nazionalista e molto più sorda a quelli che sono i diritti dei palestinesi, i diritti della pace. Le reazioni interne israeliane sono poche, ma vanno assolutamente aiutate, perché sono voci che sono importantissimi anche perché, essendo pochi, sono estremamente attaccati nella loro società, sono molto isolati, e noi credo che dobbiamo dare voce e dare forza a queste forze di opposizione dentro Israele, che dicono che l'annessione è un crimine, che dicono che i palestinesi hanno il diritto di vivere in uno Stato. Quindi io credo che dovremo continuare noi ad agire per fare pressioni, perché anche il nostro governo, per esempio, è una voce debole. Ora, ci sono stati 70 parlamentari che hanno fatto una dichiarazione di non annessione, Marina Sereni, che è la vice esteri, ha fatto dichiarazione di non annessione, il governo ha seguito anche all'interno della Palestina, per esempio ha fatto parte degli 11 diplomatici che ha detto al ministro degli esteri israeliano che l'annessione è considerata illegale, come sono considerati illegali i territori. Ma bisogna andare oltre, bisogna dalle parole, dalle condanne, decidere che si fanno azioni concrete perché Israele rispetti i diritti dei palestinesi. Una cosa, dopo le cose che avete detto, poi dopo mi viene in mente la tiepida dichiarazione di Joseph Maas, ministro tedesco degli affari esteri, dopo che è andato a fare la visita in Israele, che quindi si è capito che anche l'Unione Europea non applicherà, non vorrà applicare le sanzioni, dopo le dichiarazioni di Abu Mazen, che ha dichiarato lo scioglimento degli accordi, quelli derivanti da Oslo. Ecco, secondo te, che conosci appunto, sei palestinese, conosci il popolo palestinese, potrebbe quel caos di cui parlavi prima trasformarsi di nuovo in un'altra intifada? Io credo che noi palestinesi, nel momento in cui nessuno pensava o aspettava, la gente scendeva per la strada per protestare. Mi ricordo io la prima intifada, basta tornarci alla prima intifada, c'era il benessere, c'erano i palestinesi che lavoravano anche in Israele e quasi nessuno ci credeva a un'intifada, a una sollevazione popolare palestinese. Noi palestinesi ci siamo abituati dall'anno 36 fino a questi giorni, solo che ora credo che è il momento, penso, veramente molto molto probabile, perché se al palestinese non si lascia nessun sbaraglio, perché ora anche negli ultimi 20 anni, dopo la nascita con questi accordi, insomma, che sono stati chiamati di Oslo, di Pace, e la nascita dell'autorità palestinese, i palestinesi hanno cercato nel fare le banche, nel cambiare il loro ritmo di vita e così via, si sono abituati a un certo ritmo di vita e ora viene a mancare. Basta che io ve le dico, gli ultimi che anche dei miei familiari, cioè io vivo e vengo dalla Palestina, tutta la mia famiglia vive in Palestina, a Nablus. Loro ora, l'autorità non c'ha nemmeno i soldi a pagarli i loro stipendi a questa gente. Sono indebitati, senza futuro, e chiusi in casa, minacciati anche dai coloni. Una volta il colono israeliano non ci aveva il coraggio di passare e di avvicinare alle città palestinesi o ai villaggi dei palestinesi, invece è diventato il contrario. Purtroppo ora noi chi si nasconde e noi ci si scappa dal colono, e questa è la politica che fa paura di Israele, che noi palestinesi sempre a chiedere aiuto a voce alta, che purtroppo non abbiamo visto, sentito nessuno. E io credo che se ora, dopo questa annessione, questa politica di Netanyahu, con, non lo so, io veramente ancora non sono sicuro che l'autorità ancora ci prova, la nostra autorità ancora mi sa che ci crede nella trattativa, e ancora l'ha chiesto proprio anche ieri il nostro presidente, che lui ieri ha detto di no, invece oggi dice che sono disponibili, se Israele dice no all'annessione io sono disponibile di scendere a trattare con gli israeliani. Io credo comunque con tutto questo buio che c'è davanti alla popolazione, perché stanno cercando di strangolare l'autorità, pochi aiuti, perché ormai i soldi che arrivavano quasi si stanno scarseggiando, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi non davano più quegli aiuti che ci sono, siamo l'autorità, noi palestinesi ci siamo abituati ad averli, che ora questo stipendio di questi mesi, il mese scorso, non sono arrivati alla gente. Con la minaccia dei coloni, che praticamente ora, dopo le 7, nessun palestinese può arrivare da una città all'altra, le uccisioni continue, insomma, dei coloni contro, perché i coloni sono protetti dai soldati israeliani, sono diventati talmente così pericolosi per noi che noi siamo terrorizzati e nessuno può proteggere questo palestinese. E questa politica fa sì che, appoggiata da Israele, fa sì che i palestinesi prendano e scappano e lasciano la Palestina. E questa è la politica lenta, piano piano, che Israele che sta facendo contro di noi. Con tutto questo, mancanza di sicurezza nel vivere nella tua città, basta vedere, insomma, quelli che sono stati tutte le sere, vanno e bruciano i bambini nelle loro case, che purtroppo che ancora dopo 8, 4, 5 anni che hanno bruciato dei bambini, le famiglie che non sono state condannate. Questa è la democrazia israeliana. Questo è quello che non vede la comunità europea e il mondo occidentale democratico. I palestinesi si tirano un sasso, il giorno dopo viene condannato, cioè, da bambini, insomma, di 15-13 anni dal tribunale militare. E quelli che bruciano i palestinesi nelle case, nelle loro case, purtroppo vengono con l'amnistia del presidente dello Stato più democratico del mondo, l'unica democrazia, anzi, viene definita nel mondo. E io sento anche una cosa, mi dispiace, vergognosa, se mi permettete di definirla, di chiamarla, non solo da certi personaggi anche europei che sono vissuti, cresciuti, allattati, ci hanno trasmesso la democrazia, eccetera, e che amano questa politica e questo Stato di Israele, è un Stato democratico con tutta questa politica. Tornando alla domanda, io penso mancanza di fame, mancanza di sicurezza, mancanza di prospettivo, di prospettivo, insomma, per il futuro. Io penso che la gente scenderà per la strada e scoppierà un'altra intifada. Dunque, Abed, ricorda che c'è un buio davanti e nello stesso tempo questo mito di Israele unica democrazia. E io mi chiedo quanto può durare ancora questo modo di dire. Allora, rispetto alle contraddizioni che ci sono, e cioè dentro Israele c'è un'ubriacatura di onnipotenza. C'è una sinistra che ricordava la Luisa, è una sinistra assolutamente minimale, però è una sinistra che su posizioni corrette, cioè è una sinistra antisionista e che riconosce esplicitamente l'apartheid. L'hanno dichiarato in piazza Rabin il 6 di giugno, quando c'è stata la grande manifestazione. Ora, nell'ambito del mondo ebraico, che cosa succede? Io ho guardato oggi il sito Moked, portale dell'ebraismo italiano, e anche pagine ebraiche, giornale delle comunità ebraiche italiane. Non c'è una parola sull'annessione, non c'è, non c'è. Ma nel resto del mondo ebraico invece questo c'è, e c'è in modo molto vivace. Se si va a guardare la pubblicistica in giro, si trovano molti, molti articoli scritti da ebrei. Da ebrei anche, diciamo, non tradizionalmente di sinistra, che sono assolutamente messi nei problemi rispetto a questa nuova situazione che si va a creare, cioè al fatto di dover un domani riconoscere che lo Stato che loro pensavano, lo Stato modello, lo Stato democratico, è lo Stato che promuove la tortura, che fa l'apartheid, che è uno Stato razzista. E si dice, se vuoi essere secondo i valori ebraici, devi essere antisionista. Questo dicono alcuni degli scrittori. Ascoltiamo ora un brano da La giornata della terra, un documentario estratto dal film Palestina in fiamme di Monica Maurer. 30 marzo 1976. L'esercito israeliano compie una strage tra i contadini palestinesi che si oppongono alla sistematica distruzione degli oliveti. Da allora, quel giorno viene ricordato come la giornata della terra. Di fatto è diventata una giornata di lotta nazionale contro l'occupazione. Perdita della terra è la questione vitale per gli arabi palestinesi. In Galilea, nelle regioni settentrionali della Palestina, il 50% della popolazione è araba, ma possiede solo l'8-10% della terra. Ancora una volta il nostro popolo ha dimostrato, oggi, giornata della terra, un alto senso di responsabilità nei confronti della nostra storia e una grande determinazione a conservare la nostra unità nazionale al fine di rendere vani tutti i tentativi tesi ad annientare la nostra esistenza. In realtà devo dire che grandi opposizioni vengono soprattutto dagli ebrei nordamericani. Ci sono grossi movimenti di ebrei nordamericani che sono assolutamente schierati non solo contro l'annessione, che è l'ultimo passo, è il passo che stanno facendo adesso, ma sono contro l'occupazione della Cisgiordania, di Gaza, perché anche Gaza è ancora occupata, oltre che essere totalmente rinserrata e con l'embargo. È un fermento molto grande e, come dicevi tu Claudio, in realtà ci sono moltissimi anche israeliani o ebrei moderati che non sono antisionisti, sono sionisti però nel senso che in fondo era stato accettato anche dall'accordo di Oslo, nel senso che riconoscono lo Stato di Israele sui confini del 67 e non tutti rivendicano ovviamente Gerusalemme come capitale unica e indivisibile di Israele. Quindi anche questi sono molto sconvolti anche dalla politica di Netanyahu e considerano Netanyahu, anche perché negli Stati Uniti per esempio molti sono stati gli ebrei progressisti, considerano Netanyahu un alleato di Trump, che è anche un loro nemico, e sono preoccupati appunto però del destino di Israele, cioè dicono che Israele non può continuare a essere così, uno Stato che si basa sull'occupazione e il tentativo di distruzione dei diritti di un altro popolo. Io credo che il mito e la propaganda, l'asbara fatta su Israele, unica democrazia del Medio Oriente, non l'è mai stato, perché quando tu occupi un altro popolo non puoi essere democratico, sei un po' come l'antica Grecia, no? Grande democrazia, però poi c'erano gli schiavi, quindi non è mai stata una democrazia. Però è vero che era una grossa democrazia al suo interno, che aveva uno stato sociale, fino all'avvento di Netanyahu. In realtà Netanyahu non ha soltanto peggiorato la politica nei confronti dei palestinesi e non ha mai sostenuto con chiarezza lo Stato di Palestina sul territorio del 67. Netanyahu ha distrutto anche la democrazia e lo Stato sociale che Israele aveva costruito. I kibbutz sono terminati anche grazie alla politica liberista che ha fatto Netanyahu. Quindi noi dovremmo anche vedere Netanyahu non soltanto nell'ottica dei palestinesi e del fatto che lui vuole assolutamente quel territorio. Lui ormai fa parte dei nazionalisti messianici. Anche lui ha il disegno e la voglia della grande Israele. Ma Netanyahu è stato anche quello che ha distrutto la politica democratica di Israele per i suoi cittadini. E questo va avanti moltissimo. L'economia è così, cioè Netanyahu è arrivato dagli Stati Uniti a importare la politica liberista che c'era negli Stati Uniti. Quindi c'è anche questo piano. Però dentro Israele, per esempio, sulla questione dell'annessione, anche un personaggio come Gantz, che per carità non è certamente da considerare la sinistra, tanto più che ha fatto il governo di coalizione con Netanyahu. Gantz è il generale che quando ha corso alle elezioni aveva come clip promozionale il fatto che lui aveva distrutto Gaza, sostanzialmente aveva bombardato Gaza come una grande cosa. E però Gantz è contrario all'annessione della Giordania. Netanyahu ha dovuto anche fermarsi un po' perché al suo interno non soltanto Gantz, ma anche dei generali, che i generali si sa contano moltissimo in Israele, non sono d'accordo per nessuno. Alcuni non sono d'accordo per ragioni, perché non vogliono annettere. Però Gantz dice anche non possiamo annettere se poi diciamo che quelli che annettiamo non sono cittadini israeliani, ma rimangono non si sa che cosa. Quindi ci sono molte contraddizioni all'interno. Io non so se scoppierà una nuova intifada, credo che sia necessaria, ma non intifada nel senso, i palestinesi sono molto stanchi, e tu Abed lo sai benissimo, e lo dicevi anche tu, sono stanchi, non hanno speranze, non pensano che ormai devono cercare semplicemente di sopravvivere, anche se ci sono molte sacche di resistenza popolare tra le persone. Io penso alle cose eroiche dei giovani delle colline sud di Ebro, ma anche nella Valle del Giordano, ma anche a Nablus, in quelle aree là sopra, ci sono i contadini che comunque continuano ad andare a coltivare la terra, andare a fare la raccolta delle olive, anche se vengono attaccati costantemente dai coloni, perché è vero che la questione dei coloni è diventata paurosa, ed è vero che i coloni, come dice Abed, hanno una forza e una tracotanza inverosimile, soprattutto i giovani, perché i coloni si sono arricchiti, i giovani che sono, ma dire fascisti non è dire nulla, in realtà sono giovani che non vedono l'altro, che semplicemente pensano che quella terra è loro per diritto divino e gli altri non esistono, e quindi diventano aggressivi, e come dice Abed, purtroppo non vengono mai perseguiti o condannati, o se vengono condannati per crimini pazzeschi, prendono 6 mesi o 7 mesi. Quindi l'intifada, è vero quello che dice Abed, che in realtà improvvisamente i palestinesi riprendono le forze, perché sono un popolo che ha resistito, che ha lottato, un popolo che ha enorme dignità, ma oggi si fa fatica anche l'OLP, anche Fatah e anche gli altri partiti hanno cercato di organizzare manifestazioni in questo periodo, però sono molto pochi. C'è una voce che adesso faranno una conferenza stampa proprio domani, credo, più di 500 personalità palestinesi della società civile hanno preso posizioni e stanno anche loro mandando messaggi alla comunità internazionale perché si smetta con l'occupazione, si smetta con l'annessione. La situazione economica è tragica, drammatica, tra l'altro in questi giorni stanno crescendo di nuovo i casi anche del Covid, e a Hebron in questi giorni sono stati 35 casi ieri, adesso sono aumentati. A Nablus, per esempio, un medico dell'ospedale di Nablus ha avuto il Covid ed è, hanno chiuso l'ospedale, quindi la situazione è veramente preoccupante da un punto di vista economico. L'autorità palestinese sta cercando di rompere e di essere presente nella diplomazia internazionale, per questo chiedono anche il riconoscimento dello Stato della Palestina, chiedono soprattutto una conferenza internazionale e di non essere abbandonati come quando venne fatto l'accordo di Oslo, che tutti se ne andarono dopo la grande bacio di Clinton, se ne andarono e lasciarono i palestinesi a trattare solo con gli israeliani in una situazione di totale disparità di forze, perché un paese era l'occupante e l'altro occupato. Quindi situazione complicata, complessa, molto difficile. Le giovani generazioni ogni tanto esplodono, ogni tanto anche le donne, per esempio le ragazze di Talat sono state in piazza sia per le loro lotte femministe sia per le lotte contro l'occupazione. Vedremo, io credo che noi dobbiamo essere molto insieme ai palestinesi perché hanno tutto il diritto alla vita, alla libertà, e queste manifestazioni che faremo sabato in tantissime città d'Italia sono una piccola cosa rispetto a quello che è il bisogno che ci sia solidarietà nel mondo per la Palestina, ma soprattutto che ci siano i governi che assumano una posizione decisa e dicano sanzioni nei rispetti di Israele. Lo sta chiedendo con molta forza anche il governo palestinese. Per esempio Saeb Erekat, che è stato negoziatore della Palestina, ma è anche il segretario generale dell'Organizzazione di Liberazione della Palestina, ha chiesto con molta forza all'Europa di dire con chiarezza da che parte sta, e se sta dalla parte del diritto devono sospendere gli accordi di associazione, non devono vendere armi agli israeliani. E, allora, per finire vorrei fare un'ultima domanda sia a Abde che a Luisa. Cioè, da quello che abbiamo detto, se la strada segnata sembra quindi la continuazione dell'occupazione con tutto ciò che ne deriva, e ora anche l'annessione di parte della Cisgiordania, la strada fuori da questo contesto e scenario, quale potrebbe e dovrebbe essere per un'auspicata pace durevole? La strada, io, al mio modesto parere, abbiamo dato possibilità al mondo intero, noi palestinesi, con l'accordo di Oslo, la nostra disponibilità, abbiamo accettato il minimo possibile del nostro diritto nella nostra terra, nella nostra amata Palestina storica. Il 18% della Palestina storica abbiamo accettato di creare il nostro futuro Stato, più che altro che ci rende un po' di dignità, non per il territorio, la grandezza del territorio. La strada è l'unica per me ora, dopo 20 anni e di più di Oslo. Io, secondo me, ora è giunto il momento di dare la parola al popolo, perché è vero che il popolo nostro, noi palestinesi, siamo messi in questi ultimi anni molto male, è vero, siamo sofferenti, ci siamo lasciati soli. Però tutto questo non è che ha ucciso dentro di noi la voglia della libertà e della resistenza per un futuro per noi e per i nostri figlioli, per la nostra terra e per la nostra libertà. Gli ebrei che ci hanno, e sono tanti, che ci hanno sostenuto, sono contro questa politica di Israele, di annessioni, eccetera. Io credo noi, il nostro compito, perché sono ogni anno meno quelli che parlano per il futuro, per la pace, e per l'uguaglianza e per il diritto dei popoli palestinesi. Tutti gli anni sono meno e sempre saranno meno se noi non veniamo ad aiutarli, a dare qualcosa di concreto sia a loro, a noi, a voi che stiamo a lottare per cambiare la situazione in Palestina. Però la mia speranza è questa: credo che sia ora giunto il momento di mettere le cose sul chiaro. La nostra autorità, con la sua politica, è inutile che io, con tutto rispetto parlando, di gridare a voce alta, a voce alta, dal nostro signor Saeb Erekat o dal nostro presidente alla comunità internazionale. Perché la comunità internazionale, loro che ci hanno messo nell'Oslo, e l'Oslo non ha prodotto nulla. La comunità internazionale, l'Europa non è riuscito nemmeno a proteggere una scuola di gomme. La comunità europea non è riuscito a mantenere una scuola di gomme, stata fatta per bambini di asilo. Come questa comunità, come io mi posso, e che cosa io come palestinese aspetto della comunità internazionale? Io sono ora più che sicuro che dobbiamo cambiare e rovesciare tutto dal tavolo. Bisogna cambiare le carte, quelle in cui che abbiamo giocato negli ultimi 20 anni. Bisogna chiudere una volta per sempre e questi accordi di Oslo, e lasciare il popolo palestinese a scendere per la strada, come abbiamo vissuto e abbiamo superato la nostra fame, però orgogliosamente. La nostra antifada purtroppo è stata spenta, è stata uccisa con l'accordo di Oslo. Noi siamo più che sicuri, con la caduta ora, con la cancellazione, come ora ha chiesto e ha detto la nostra autorità, non vuole più andare avanti con l'accordo di Oslo e lasciare la parola al popolo palestinese. Lì noi possiamo sì cambiare qualcosa, possiamo sì far paura al colono di venire a attaccarci mentre noi siamo nei sonni. Il colono israeliani sono tutti armati, come sapete, e protetti anche dei soldati israeliani e protetti dai loro tribunali militari israeliani. E se loro mi vengono, mi uccidono in casa mia, mi bruciano, io che vado a pagare forte. Sicché io penso, giunto il momento alla mia, posso io criticare ora casa mia, come palestinese, la nostra autorità, bisogna che veramente ora continua a dire no a questi accordi e lasciare le parole al popolo. Luisa? Ma io penso che l'accordo di Oslo sia morto quando hanno ucciso Rabin e quando Peres, invece di continuare sulla strada dell'accordo, della restituzione dei territori occupati, in realtà ha scelto la strada della sicurezza e ha permesso a Netanyahu di vincere le elezioni. Quindi l'accordo di Oslo è morto da diverso tempo, è morto anche quando nella seconda intifada Sharon ha rioccupato tutte le città della Palestina mettendo a ferro e fuoco Ramallah, Nablus, Jenin, e praticamente da quel momento l'accordo di Oslo non c'era più, nel senso che era stata rioccupata la zona A, non soltanto l'area B o C dove gli israeliani secondo gli accordi avevano il diritto. Io credo che l'autorità palestinese sia stata molto in ritardo nel capire questo, nel capire che appunto gli accordi erano finiti, e allora bisognava cercare di impedire per esempio la crescita delle colonie. Io mi ricordo di essere stata anch'io con loro, con Zaira Kamal, con Faisal Hussein, che è il grande leader di Gerusalemme, purtroppo morto durante la seconda intifada, che quando si stavano costruendo le colonie di Ar-Homa, per esempio, quella che i palestinesi chiamavano Jabal Abu Ghneim, che è tra Gerusalemme e Betlemme, Faisal, ma c'erano anche molti leader della Palestina, insieme anche agli israeliani come Mikado, come i gruppi pacifisti israeliani, siamo andati parecchie volte davanti alla collina dicendo no agli insediamenti, no alle colonie. Ecco, io penso che se anche Arafat, non soltanto Abu Mazen, se anche Arafat per esempio avesse avuto l'idea, come io avevo da sindacalista, diciamo, che si fa un accordo e poi si lotta per la conquista di quell'accordo, mentre invece ci si è un po' adagiati in quell'accordo e non si è cercato di organizzare quello che Abed chiama il popolo, la popolazione palestinese, per resistere passo per passo a quelle che erano le costruzioni delle colonie, per esempio. È avvenuta la seconda intifada ed è stata una devastazione totale. La seconda intifada è stata la distruzione della Palestina, praticamente, non per colpa dei palestinesi, ma per colpa degli israeliani, però è stata una scelta, io credo, sbagliata, quella della lotta armata, che non ha mai avuto una strategia, e tra l'altro non solo di lotta armata si è trattato, ma anche di atti come i kamikaze, poi i ragazzi che non avevano colpa, che andavano a farsi saltare per aria, che però erano mandati da una forza politica come quella di Hamas, per esempio, che sicuramente non ha fatto bene alla Palestina. La Palestina è stata isolata moltissimo nella seconda intifada, anche dagli attivisti, anche dalla socialità. Mi ricordo che eravamo pochissimi ad andare in Palestina in quel periodo, accanto ai palestinesi che venivano. Quindi lì vi è stato proprio un grosso dramma. E hanno cominciato però ad essere a cercare di resistere, per esempio, alla costruzione del muro, i giovani dei villaggi, i giovani dei villaggi palestinesi, dove il muro davvero portava via tutte le terre che dovevano essere coltivate. E quello è stato un momento molto importante, che è sembrato un po' come la prima intifada, dove tutte le donne, i bambini, tutti quanti cercavano di resistere alla costruzione del muro. Quindi responsabilità, io credo, da parte delle autorità palestinesi ci sono state proprio nel non essere riusciti a contestare colpo dopo colpo con la lotta popolare, non con i fucili che tanto non servono, anzi distruggono i palestinesi e basta, perché Israele è una potenza militare che occupa militarmente quel paese e nessuno ha detto niente ad Israele quando ha bombardato Gaza, praticamente ammazzando 2000 persone, civili in maggioranza. Quindi ci sono responsabilità nell'accordo di Oslo, è terminato, non esiste più, però che fare? Io non credo al popolo che insorge e fa tutto. Certo, bisogna cambiare i parametri, come diceva Abed, ma bisogna anche sapere che comunque cosa si fa? Si fa come il Kosovo? Si fanno i Kosovo primo tempi, quando davvero la gente resisteva con ogni violenza, non riconosceva nessuna autorità, però non, cioè, è un po' complicata la situazione. Non credo che il popolo insorga e sia capace di... si insorgerà, si muoverà, certo, perché non può accettare non soltanto l'occupazione, ma non può accettare neanche il fatto che appunto l'autorità palestinese non abbia più mezzi, che la comunità internazionale non solo li abbandona da un punto di vista dei loro diritti, ma li abbandona anche in quello che ha sempre fatto, in fondo sostenuto economicamente non l'autorità palestinese, sostenuto i palestinesi, perché sono i palestinesi che poi hanno avuto gli ospedali, che hanno avuto anche lo sviluppo che c'è stato in questi anni. Quindi io credo che noi dobbiamo avere quello che diceva Mahmoud Darwish, la speranza, perché i palestinesi sono costretti alla speranza, e credo che l'alternativa e la possibilità sia quella che appunto che noi riusciamo a costruire molta solidarietà, riusciamo a costruire delle lotte che impongano i nostri governi, per esempio, di fare sanzioni ad Israele, ma anche da parte della Palestina mi auguro, spero, ci siano un movimento unito di palestinesi che sappia rompere anche con la disunità che c'è nel popolo palestinese, sapendo però che la Palestina, che per noi, per loro, soprattutto per i palestinesi, è sempre stato un esempio di un paese democratico, anche se non aveva uno Stato, di un paese che come valore ha la democrazia e la laicità, possa affermarsi. Bene, prendiamo e condividiamo queste speranze e queste nuove possibilità di cui accennava Luisa, e a questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo veramente di cuore di essere stati qui con noi a fare questa chiamata, e speriamo veramente che la manifestazione del 27 giugno in tutte le città che ho citato sia veramente calorosa e veda un grande afflusso di persone. Grazie a voi, buona serata. A questo proposito, ricordiamo che la giornata di mobilitazione di sabato 27 giugno contro il piano Trump per la Palestina, contro l'annessione del territorio della Cisgiordania, si terrà anche a Firenze, in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 17. Ringraziamo Abed e Luisa Morgantini per essere intervenuti, e vi informiamo che questa è la nostra ultima trasmissione prima dell'intervallo estivo di luglio e agosto. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento a settembre, sempre il mercoledì alle ore 17:30. Inshallah! راح يدول الاحتلال شعب الأحرار.